Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi partiamo dall'Italia che gioca domani sera a Belfast sul campo dell'Irlanda del Nord, la prima di due partite consecutive di qualificazione agli europei, la seconda sarà martedì prossimo in casa contro la Serbia. Allora, innanzitutto la formazione annunciata stamani da Cesare Prandelli. La formazione, allora giochiamo con Viviano, Cassani, Criscito, Bonucci, Chiellini, Pirlo, De Rossi, Mauri, Cassano, Boriello e Pepe. De Rossi interno con Mauri e con Andrea. Poi ovviamente se avremo difficoltà in quella zona che verranno a pressare Andrea, abbiamo provato delle soluzioni dove possiamo ruotare quel triangolo. E questo è l'allineamento, insomma lo schieramento e insieme il piano tattico di massima, sia pure enunciato in maniera abbastanza sintetica, ma chiara, se non altro chiara. Più chiaro ancora è stato Prandelli, ma chiaro vorrei proporvela perché è stato forse anche troppo chiaro nello spiegare la scelta di Viviano anziché di Sirigu in porta. Sentiamo. Portiere, il discorso che ho fatto l'altro giorno, sono tre ragazzi che stanno facendo molto bene, la scelta è difficile perché veramente meriterebbero tutti di essere titolari. Ho scelto Viviano perché ho la sensazione che da un punto di vista della partecipazione e della personalità in questo momento abbia qualcosina in più. Sì, è una spiegazione detta con un tono molto, molto pacato e molto morbido, però insomma che partecipazione, insomma, non dico che sembri una bocciatura per gli altri due, ma certamente se è un elogio nei confronti di uno dei tre, cioè del prescelto, è indirettamente una critica nei confronti degli altri due, soprattutto quando si parla appunto di partecipazione, di motivazioni e di questo genere di cose. È un parlar chiaro che mi pare Prandelli aveva abbastanza inaugurato in questo ritiro, no? Prima ha detto che di giovani in giro non ce n'è, poi adesso motiva in questo modo la scelta di un portiere anziché gli altri due, fermo restando che restano tutti e tre questi ragazzi riserve di Buffon, ma insomma per qualche mese ancora tocca a loro giocarsene. Questa in genere è una motivazione, cioè rispetto al solito una motivazione di scelta abbastanza forte come genere di spiegazione. Sentiamo cosa dice dell'Irlanda del Nord, e cioè dell'avversario di domani sera. Va affrontata con una grande intensità, va affrontata non soltanto da un punto di vista temperamentale e caratteriale, perché quei giocatori che arrivano a grandi livelli hanno tutti nel DNA carattere, temperamento e grinta. Vanno affrontate con l'obiettivo di mettere in difficoltà. Questa squadra in casa ha uno score importante, vuoi per veemenza, vuoi perché il pubblico è talmente coinvolto che riescono a dare più di quello che possono dare. E allora abbiamo visto, abbiamo analizzato e pensiamo di poter andare su questo campo molto difficile e giocare a calcio e tatticamente cercare di essere superiori a loro. E questa indubbiamente è il progetto della vigilia, che insomma, dovrebbe tradursi in pratica, anche se insomma qualche punto di domanda è pur sempre lecito, trattandosi di una trasferta impegnativa. Io sentirei ancora anche Floccari. Floccari è uno dei diciamo pure dei ripescati di questa nazionale, o dei pescati a scelta, perché la sua convocazione si è materializzata in assenza per infortunio di Girardino, ma visto il momento che sta attraversando la Lazio, così come Mauri è diventato in questa occasione titolare, avete sentito prima lo stesso Prandelli spiegare, sia pure sinteticamente, come giocherà il centrocampo con inedito con Mauri, Pirlo e De Rossi, Floccari qualche chance in più in prospettiva potrebbe averla proprio per il fatto che sta giocando nella squadra attualmente prima in classifica. Sentiamo. Sicuramente diciamo che l'ottimo momento della Lazio mi ha permesso insomma di essere qua, e quindi ringrazio la società che ha creduto l'anno scorso a me in un momento mio non brillante, di riflesso ai compagni, al mister e tutti i tifosi. Insomma, la Lazio sta vivendo un momento bellissimo, quindi penso che anche i nostri tifosi siano soddisfatti di avere due giocatori nazionali oggi. Sappiamo di essere un buon gruppo che ha una mentalità importante in questo momento e che si sta godendo insomma questa posizione di classifica, però sicuramente non ci culliamo. Dobbiamo fare ancora, secondo me, 10 partite per vedere un po' di quello che poi saranno i nostri obiettivi. E questo era... era Floccari. Ricordi, mi invita un ascoltatore che si chiama Luca, che qualcun altro sosteneva di non dover rendere conto a nessuno delle sue scelte, mentre in realtà era un dipendente pubblico. Beh, adesso Luca considerare lì più un dipendente pubblico mi sembra un po' una forzatura, ma non c'è dubbio che tra i silenzi sdegnati di Lippi quando si trattava di spiegare delle scelte o delle non scelte e la disponibilità di Prandelli a parlarne invece, e magari non dico ad andare oltre perché questo non mi pare sia ancora stato fatto, ma insomma a spiegarle anche con una certa franchezza, ne corre e viva sempre la trasparenza, e quindi viva la voglia di Prandelli di non nascondersi dietro a un dito e di non rifugiarsi nelle banalità, nei luoghi comuni, che indubbiamente è sempre da, se non da applaudire, comunque perlomeno da apprezzare. Io sentirei un ascoltatore, perché poi subito dopo l'intervallo faremo invece uno spaccato non tanto sull'Irlanda del Nord avversaria, ma insomma sulla suggestione che Belfast e l'Irlanda del Nord automaticamente comportano. Allora in linea c'è Alex, ha chiamato da Udine, buongiorno. Salve signor Garanzini, è un piacere parlare con lei. Avevo due questioni, una riguardante in particolare Andrea Pirlo, che io ho sempre ritenuto uno dei giocatori più forti al mondo negli ultimi anni e uno dei miei preferiti. Ecco, io mi auspicherei che lui ha solo 31 anni e lo vedo un po' fisicamente logorato, gli auspicherei un cambio di squadra, di club, perché purtroppo il Milan si ritrova con questi tre attaccanti e lui è costretto a fare un lavoro extra, e non vorrei che si bruciasse prima del tempo, perché è un giocatore secondo me unico che nel suo ruolo al massimo della forma è superiore secondo me anche a Xavi, anche perché più completo. Alex, mi perdoni, supponendo che quello che lei dice sia vero, e mi pare che si possa anche discutere, ma lei pensa che ci sia una squadra in cui un giocatore va per non correre, cioè va per star lì tranquillo e per essere assistito e riverito? No, non penso quello, ma penso che Pirlo sia in qualche modo nel Milan costretto a fare un lavoro extra, perché è un giocatore di qualità e soprattutto più che di quantità, e mi sembra che con gli attaccanti che si ritrova al Milan, che di certo non sono famosi per essere dei generosi, diciamo, lui rischia di logorarsi fisicamente prima del tempo, e secondo me è un giocatore che potrebbe esserci addirittura. No, capito. Quello che dice lei è chiaro, non lo capisco, ma è molto chiaro. L'altra cosa? E l'altra cosa veloce, so che non so per quanto si possa lei conoscere le questioni dell'Udinese, si parla di una cessione a gennaio di Sanchez, che è un giocatore giovanissimo e fortissimo, perché Guidolin non lo mette. Allora io dico, un giocatore che è cercato dal Manchester United per rimpiazzare Valencia, valutato 25 milioni, un allenatore che si trova con una squadra ultima in classifica, che non riesce a far giocare un giocatore di talento, io mi preoccuperei di mandare via l'allenatore, non di mandare via il giocatore. Ecco, ascolto la sua considerazione questa rispetto alla prima, questa la condivido già di più, anche se pure in questo caso è un po' estremizzata. Io credo che Guidolin il talento lo sappia riconoscere. Se in questo momento fa meno il talento di Sanchez, un tecnico della sua esperienza qualche buona ragione l'avrà, che probabilmente né lei né io siamo in grado di conoscere. Facciamo questo intervallo dalle strade e le autostrade. Allora, torniamo in onda segnalando che l'Italia atterrerà intorno alle 18:30 al City Airport di Belfast, che è intitolato a un certo George Best. Allora, saluto Nicola Roggero di Sky. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. E domando a te, per competenza territoriale, di ricordare ai più giovani che cosa ha rappresentato George Best nella storia del calcio, ma non solo nella storia, anche nell'immaginario del pallone. Dici bene Gigi, è stato un personaggio che è andato oltre le sue imprese calcistiche. Sul campo George è stato una meteora, perché di fatto a 22 anni, quando lui vinse il Pallone d'Oro e la Coppa dei Campioni con il Manchester United, sostanzialmente, anziché segnare un punto di partenza nella sua carriera, segnò un punto d'arrivo. Lui ha 27 anni quando lasciò il Manchester, era di fatto un giocatore finito. Però è stato un primo giocatore che ha portato la sua fama oltre il campo di calcio. A differenza però di quanto accade oggi, dove l'immagine del calciatore è essenzialmente costruita, lui lo faceva in maniera totalmente naturale. Divenne quasi una rockstar, non a caso fu denominato il quinto Beatles, proprio per il suo amore per la vita notturna, soprattutto per i suoi eccessi, in particolare l'alcol, che poi ha portato a far finire la carriera molto in fretta e ahimè a farne terminare anche la vita in maniera estremamente rapida. Ed era soprattutto un personaggio assai intelligente, magari non colto ma intelligente. Si ricordano le sue strepitose frasi, tipo ho speso un sacco di soldi in donne, alcol e auto veloci, tutto il resto l'ho sprecato. E rimase brillante anche poi come commentatore televisivo, come commentatore sportivo. La sua definizione più bella rimane quella su Beckham, quando gli fu chiesto: ma Beckham è un grande giocatore? E lui rispose: beh, a parte il fatto che non porta il tackle, non colpisce di testa, non segna molti gol e non salta l'avversario, per il resto è un grande giocatore. Fantastico. Nicola, ti interrompo un istante perché proviamo a richiamarti, in quanto la linea non è perfetta. Nel frattempo ci godiamo il ripasso di questa frase che è rimasta celebre e che era conosciuta indubbiamente, però è sempre un ripasso piacevole perché questa frase, insomma, di un'ironia abbastanza feroce, però insomma è troppo divertente per averla dimenticata. Matteo da Modena scrive: mio padre è convinto che Best sia stato il più grande di sempre, lei cosa ne pensa? Ma insomma, forse più grande di sempre no, anche perché insomma i grandi di sempre sono durati nel tempo, come è durato Pelé, come è durato Maradona, i più grandi intendo, durato Pelé, come è durato Maradona, come è durato Cruyff, insomma, come è durato soprattutto Di Stefano, Platini, insomma, Schiaffino, vabbè, lì poi le gerarchie ciascuno se le fabbrica a suo modo. Ma che Best sia stato uno strepitoso campione, che dal punto di vista tecnico e suggestivo sia degno di figurare a quei livelli, su questo non c'è nessun dubbio. Non c'è dubbio nemmeno che stia facendo un po' di fatica a ripescare Nicola Roggero. Insomma, prima o poi il miracolo tecnologico si realizzerà. Anche perché insomma, era partito molto bene Nicola, no? con queste due chicche ricordate, sia quella sulle spese, no? sul come si possono investire i denari, sia quella sul suo presunto erede, successore con la maglia numero 7 del Manchester United, e cioè Beckham. Ricordo che Beckham è scomparso a 59 anni, mi pare 5 anni fa, sì, perché era nato nel 46, il 22 maggio del 46. Nicola è tornato tra noi e quindi dopo queste sue splendide battute, direi memorabilia, no? che tu hai ricordato, mi piacerebbe che lo inquadrassi come campione in quel genere di calcio. Cioè, io ho un ricordo di quell'epoca in cui Best portò in un certo senso nel calcio il vento del 68, e per questo è rimasto nella storia. Il vento del 68 non era un vento politico, evidentemente, nel calcio, era un vento nuovo, era un vento di rinnovamento, era un vento che, così come cambiò la musica con i Beatles, se tu ce l'hai ricordato prima, cambiò il modo di intendere il calcio da parte di George Best. E direi che, Gigi, non ci poteva essere un paragone più azzeccato. Non è un caso che proprio nel 68 George Best conquistò sia la Coppa dei Campioni che il pallone d'oro. Non è un caso che George Best avesse i capelli lunghi nel calcio, che invece allora presentava dei personaggi azzimati. Tanto per citare, in Inghilterra c'erano Stanley Matthews, c'era Bobby Charlton, cioè personaggi che erano in qualche modo all'opposto di quello che invece poi rappresentò George Best. Lui fu veramente un ciclone sul calcio britannico, ma in generale sul calcio mondiale, anche per il suo modo di giocare. Purtroppo ovviamente non abbiamo l'immagine delle partite di George Best in maniera completa, soprattutto qui in Italia. Per quanto possa aver capito io dagli spezzoni di filmati che si possono ricavare anche con le videocassette, era un giocatore che aveva una velocità straordinaria rispetto al calcio che si giocava all'epoca. Sì. Chiaramente il calcio in quegli anni cominciò a cambiare grazie a Best e successivamente poi grazie all'Olanda. Era un giocatore che aveva un grosso talento, unito, ripeto, a un'esecuzione in velocità che erano assolutamente strepitosa. Per fare un paragone, direi che George Best poteva ricordare, ecco, Arjen Robben, tanto per citare un giocatore di oggi. Probabilmente però, ripeto, con una differenza rispetto alla velocità con cui si giocava il calcio allora, superiore. Resta per tutti quel gol meraviglioso che lui segnò al Benfica di Eusebio nella finale di Coppa dei Campioni. Si era già ai supplementari, Best segnò il gol del 2-1, si era già giocato 90 minuti. Ebbene, Best, in un'azione di 30 metri, dietro non meno di 7-8 metri di distacco al suo difensore, saltando poi il portiere e realizzando portavuoti. Ecco, quel gol è un po' la fotografia di quello che era il gioco di Best. Ho rivisto recentemente in una di queste avventure notturne su ESPN, ho rivisto proprio quella partita, e fu una partita di un livello tecnico stratosferico, anche perché dall'altra parte c'era Benfica, appunto, di Eusebio, di Colugna, di Torres, di Simoes e di questa gente, e di qua George Best giocava a fianco, correggimi se sbaglio, di un certo Bobby Charlton e di uno che è stato uno dei più grandi di tutti i tempi, un po' misconosciuto, che era Dennis Lowe. Lo ricordo volentieri, anche perché ha giocato anche nel Torino E quindi non puoi non ricordarlo volentieri. Ha giocato nello United e nel Torino, quindi che sarebbero le due squadre del cuore di Nicola. Senti Nicola, un ascoltatore, anzi due, a parte il fatto che io prima ho detto che aspettando di ripescarti, insomma, il lapsus è sempre in agguato, no? E quindi ho detto che Beckham era morto a 59 anni. Beckham scamperà fino a 590, evidentemente, e a 59 purtroppo è morto George Best. Un paio di ascoltatori, proprio perché la ricezione prima non era perfetta, vorrebbero che tu ripetessi quelle due straordinarie battute di Best. Beh, una è quella che contraddistingueva la vita di George Best, che era: ho speso un sacco di soldi in auto, donne e alcol, donne e auto veloci, tutto il resto l'ho sprecato. E la seconda fu la definizione di Beckham, che era su una domanda: Beckham è un grande campione, un grande calciatore? La risposta di Best è: beh, a parte il fatto che non porta il tackle, non colpisce di testa, non salta l'avversario, non segna molti gol, per il resto è un grande giocatore. Fantastico. Ce ne sono altre, certo. Io ricordo quella del 69, che lui disse: nel 69 avevo deciso di smetterla con l'alcol e con le donne, sono stati i peggiori 20 minuti della mia vita. Sì, poi è chiaro che, dato che ci sono anche molti ragazzi che ci ascoltano, io ho sempre un po', non dico paura, ma insomma c'è sempre un po' la riserva mentale, no? di glorificare in eccesso questi personaggi. No, non parlo del calciatore, evidentemente, Best, che magari ne crescessero in fotocopia. Sto parlando del personaggio. No, non possiamo dimenticare, come dire, concludendo questo ricordo di un fenomeno come Best, non possiamo dimenticare che è morto per l'appunto a 59 anni, ma che da molti e molti anni ormai era ridotto, se non a una larva, a qualcosina di molto simile, per alcol, per ha dilapidato tutto questo, tutto quello che ha guadagnato, eccetera, insomma. Certo, e infatti andrebbero proprio uscisse i due Best. Io ricordo che George Best, sul letto di morte, pochi giorni prima appunto di lasciarci, si fece fare una fotografia dal suo agente, ovviamente ridotto in condizioni drammatiche, e questa fotografia lui volle che fosse pubblicata sui giornali con la frase: don't die like me, cioè non morite come me. Era proprio un messaggio che lui voleva lasciare ai giovani, per dire: un conto è quello che ho fatto sul campo, un altro conto tutti gli errori che ho commesso nella vita. Purtroppo, sai, il talento non sempre si accoppia con la disciplina. Mozart è stato un grandissimo, però è uno che poi è morto a 35 anni, anche lui di tanti eccessi. Quindi no, noi no, ammiriamo la musica di Mozart. È accaduto. Se c'è stato nel calcio genio e sregolatezza, per carità, vale per molti, vale anche in casa nostra. Ci sono stati talenti inespressi che avevano, secondo me, le potenzialità di Best. Mi vengono in mente Zigoni e soprattutto Vendrame. Avevano anche più fisico di Best, tra l'altro. Non sono riusciti ad arrivare fino a quel livello, perché probabilmente probabilmente, non perché gli mancasse qualcosa tecnicamente, almeno secondo me, gli mancava evidentemente qualcosa come temperamento, però poi nello stesso tempo non ha fatto per fortuna la brutta fine che ha fatto Best anticipatamente. Anzi, Vendrame è diventato uno splendido istruttore di calcio, ma soprattutto di vita per i ragazzini, quindi avercene come il grande Vendrame. È un bravo poeta, tra l'altro. Se posso rubarti ancora un secondo, vorrei soltanto ricordare quanto George Best significasse anche al di fuori del calcio, con il fatto che lui da nord irlandese ovviamente entrò nelle famose questioni tra protestanti e cattolici, sì, dei trouble nel nord Irlanda. Bene, prima di una partita a Newcastle Best venne minacciato dall'IRA, che disse: se Best gioca quella partita noi facciamo un attentato a Best, gli spariamo. Insomma, morale: Best di Manchester scende ugualmente in campo con Best segna il gol della vittoria, chiedono all'allenatore del Newcastle: ma lei pensa che la minaccia di sparare a Best abbia in qualche modo condizionato la partita? Risposta cruda ma efficace dall'allenatore del Newcastle: beh, magari gli avessero sparato quel bastardo. Perché forse in quel momento era l'unico modo per fermarlo. Nicola, esatto. Io ti ringrazio di questi Amarcord, tieni pronto perché tra qualche minuto cambiamo completamente argomento, ma ci sarà di nuovo bisogno di te. Ci sarò qui presente. Grazie. Francesco da Milano, a proposito di Dennis Law che ho ricordato prima, scrive: è stato l'unico scozzese, secondo qualcuno, dice, non mi ricordo più chi, scrisse che Dennis Law sarebbe stato l'unico scozzese che avrebbe potuto giocare nella nazionale brasiliana, e secondo me ha perfettamente ragione, perché aveva la forza del calcio britannico ma il talento, la classe e l'eleganza di un vero brasiliano. Secondo intervallo di oggi, quello più lungo per la borsa. Beh, quanti messaggi su Best, quante suggestioni tornano anche, non necessariamente da appassionati di calcio come Carmen da Cuneo, che scrive un messaggio delizioso. Un ascoltatore mi dice: era irlandese, non scozzese. Lo so, l'abbiamo detto all'inizio, non a caso è a Belfast che atterra stasera l'Italia, ed è a Belfast che c'è l'aeroporto intitolato al grande George Best. Scozzese era Dennis Law, di cui abbiamo parlato dopo, suo compagno di squadra nel Manchester United. Qualcuno crea un'ulteriore suggestione, quella di un parallelo tra George Best e il piccolo Best italiano che era Gigi Meroni, ed è un parallelo che ci sta, e come un altro Modì, perché perlomeno Best ebbe il tempo di finire la sua carriera e di diventare un grande campione, mentre Meroni riuscì soltanto ad arrivare all'ipotesi di campione, perché la morte improvvisa lo colse addirittura a 24 anni. E comunque fisicamente, tecnicamente e come dire, e caratterialmente certamente gli somigliava, forse erano due separati alla nascita. Poi l'eccesso di Best era un eccesso diverso da quello di Meroni, ma Meroni non ha avuto il tempo, disgraziato lui, di andare avanti, magari anche sul piano degli eccessi. Oh, è tornato a trovarci Marco Bellinazzo, buongiorno. Buon pomeriggio. Marco è tornato perché il giovedì in genere, soprattutto quando non c'è campionato, ma anche quando c'è, per carità, è il giorno dedicato un po' alla messa a punto dei temi economico-finanziari normativi. Dobbiamo passare dalla poesia del calcio alla prosa, insomma, certo. ci scuseranno gli ascoltatori. No, ma ci sarà spazio, perché mi segnalava dal centralino che molti ascoltatori premevano per intervenire su Best, e quindi alterneremo, no? Mi pare questi proveremo ad alternare questi due registri. Intanto, tu domenica hai intervistato per il Sole 24 Ore un altro discreto pallone che per sua fortuna c'è ancora, a differenza di Best, che è Michel Platini. Mi pare di aver ricavato da questa intervista che Platini non è più così ottimista sul conto del fair play finanziario. Beh, la notizia è che nonostante ci siano stati già due anni di richiami e di moral suasion nella valutazione degli ultimi bilanci in tutta Europa, la UEFA sta riscontrando un peggioramento della situazione. E questo sta allarmando ovviamente chi invece si giocherà anche la presidenza della FIFA prossimamente proprio su questa battaglia. Certo. L'intervista, devo dire, è stata molto interessante, soprattutto per alcuni messaggi impliciti che Platini lì, qui e là ha lanciato su vari aspetti, insomma, e in qualche modo sta anche iniziando a venire fuori qualche velata polemica. Per il momento i club non si sbilanciano e l'ECA, che è la Confindustria del calcio europeo, ha appoggiato il progetto Platini, sì. Ma nelle varie, nei vari paesi c'è qualche malumore, non sull'obiettivo finale che tutti condividono, più che altro sulle modalità con cui il fair play finanziario, no, dovrà essere attuato, e ci sono tutta una serie di disomogeneità nelle varie legislazioni. La quella più eclatante ovviamente riguarda le squadre spagnole, Barcellona e Real Madrid, che possono contare sui contributi dei soci, su un numero impressionante di contributi, piccoli ma di tanti soci, che possono continuare ad arrivare, potranno continuare ad arricchire le casse dei due club. Viceversa, le proprietà dei club, per esempio italiani, che sono generalmente legate a una sola famiglia o comunque a una sola società, saranno in qualche modo pregiudicate, cioè la capitalizzazione con grosse cifre non sarà più consentita, salvo casi specifici, e questo crea una disparità di trattamento, con il pericolo che tutti i grandi campioni finiscano comunque in Spagna, cosa che non è inedita rispetto al passato, ma è una tendenza che si potrebbe accentuare. Certo, in ogni caso mettiamo da parte questa intervista, perché insomma quando lui dice che invece di calare le perdite aumentano, in realtà quando prende atto di questo, non è il, mi pare di aver capito, non è il fallimento di un progetto né di un obiettivo, ma è semmai una tirata di redini. Che occorre evidentemente in maniera più forte, più anche severa. Perché appunto ha sentenziato che non ci saranno più proroghe, cosa che qui e lì veniva chiesta in Europa, per cui i prossimi bilanci, quelli chiusi nel 2011, cioè l'anno prossimo, il 2012, saranno vagliati secondo il criterio del pareggio tra costi e ricavi, e chi sgarra e non sarà giustificato, cioè non avrà fatto spese considerate positive dall'Europa, rischia di essere escluso dalle competizioni internazionali, come già accaduto quest'estate al Mallorca, è un caso Mallorca, che Platini cita come il suo cavallo di battaglia. Certo. Certo, perché no, non si potrà dire che non c'è stato un precedente. Ora il Mallorca non è, non faccio nomi per evitare, non faccio nomi italiani per evitare, no, perché sappiamo com'è il pubblico dei tifosi, ma insomma il giorno che capiterà al Liverpool, facciamo, piuttosto che al Bayern, no, non è possibile perché i bilanci là sono modello, ma insomma piuttosto che al Real Madrid o al Barcellona, non si potrà poi dire che non era ancora accaduto. Si inizia a colpire i piccoli perché esatto. I grandi intendano, mettiamola così. Esattamente. Io vorrei richiamare in causa, ma lo segnalo in regia, vorrei richiamare in causa tra non molto Nicola Roggero, perché ci può dare un altro piccolo contributo, stavolta non storico ma di attualità. Ma l'argomento lo introduci tu, nel senso che mi pare ci siano novità di nuovo che non possono piacere al fair play che riguardano il Liverpool. Il Liverpool si era impantanato in una palude di debiti, 300-400 milioni di sterline, Dio solo sa quanto effettivamente c'è poi, il rosso insomma ha indebolito finanziariamente il club, ma anche sportivamente, perché non è che stia andando benissimo il Liverpool. Sembrerebbe che ci sia una via di uscita. Altri americani padroni di una squadra di baseball, poi Nicola Ruggero ci specificherà meglio, è una via d'uscita, insomma c'è una squadra in Italia, da Roma, che attende un'analoga via di uscita, anche se le due vicende non sono diverse, sono alquanto diverse, ma in ogni caso è evidente che bisogna ripartire, perché altrimenti insomma la zavorra dei debiti rischia poi di rovinare anche sportivamente i club. Questa è la lezione che viene da Liverpool. Certo, ho visto ieri un servizio su Sky firmato proprio da Nicola Roggero, non credo di sbagliare, vero Nicola? Esatto. A proposito di questi nuovi americani, ho visto anche su molti quotidiani di stamane una foto con dei tifosi del Liverpool in primissimo piano e un cartello in mano che dice, ovviamente in inglese, una roba tipo, insomma, di americani ne avremmo avuto abbastanza o qualcosa di questo genere. Ti chiedo un intervento più sintetico di quello di prima su Best, anche perché queste cose sono francamente meno appassionanti, ma esatto. Che cosa si sa di questa gente? Allora, noi sappiamo che questo John William Henry è il cognome, il proprietario dei Boston Red Sox, squadra di baseball, e che sbarcherà a Liverpool sborsando all'incirca 350 milioni di sterline per rilevare una società che più o meno ha altrettanti debiti. Gli lasceranno il posto questi X e Gillette, loro avevano delle squadre professionistiche in America ma di hockey su ghiaccio, quindi si passerà dall'hockey su ghiaccio al baseball e vedremo quale sarà il risultato. Io personalmente, naturalmente il collega del Sole 24 Ore potrà esprimersi in termini tecnicamente molto più appropriati dei miei, continuo a vedere come il fumo negli occhi lo sbarco di tutti questi personaggi, certo. Perché io, anziché vederci il profumo della passione, vedo il profumo invece dei dollari. Con il Liverpool sono ben 5 le squadre di Premier League in mano agli americani e sono squadre importanti come il Manchester United, l'Arsenal, il Sunderland e l'Aston Villa. Altre sono in mano ai russi come il Chelsea di Abramovic, agli sheikh come il Manchester City. Ecco, a mio parere tutto questo non fa bene, anche perché l'operazione con cui per esempio sono stati acquistati il Manchester United e il Liverpool di fatto sono delle operazioni di finanza d'assalto, non so se si possa definire in questa maniera, in cui sono stati scaricati sui club i costi di questa operazione, per cui Manchester United e Liverpool si trovano con più debiti che capelli sulla testa. Ti ringrazio davvero, Nicola. Chiudiamo questo collegamento con Nicola Roggero e io condivido in pieno quello che lui ha detto. Aggiungerei, prima di dare la parola a Marco Bellinazzo, che in questo caso sì bisogna essere un po' più protezionisti. Ieri ha telefonato un ascoltatore di Verona, qualcuno lo ricorderà, dicendo che in campionato, cioè nelle squadre, dovrebbero giocare solo giocatori di quella provincia, cioè era un veronese, devono giocare solo i nati in provincia di Verona, nel Milan solo quelli nati in provincia di Milano, eccetera eccetera. Ora non vi dico il numero di sms, di mail e anche di lettere che ho ricevuto invocando l'antidoping o anche semplicemente il palloncino per questo amico ascoltatore. Nel caso in questione invece, cioè della proprietà societaria, senza stare all'ambito regionale, senza restare nell'ambito strettamente provinciale o regionale, però mi sembra che già sarebbe tutto un altro discorso, Marco. C'è una battaglia della UEFA che chiaramente si scontra poi contro le ragioni del mercato, che era quella di lasciare le proprietà dei club nel paese nel quale appunto questi club militano. In Germania, per esempio, non è possibile per una proprietà straniera acquisire il controllo e la maggioranza di un club, e mi sembra che finanziariamente, insomma, quelle società siano messe abbastanza bene. Quindi forse quando qualche settimana fa parlavamo del modello tedesco, indicavamo un modello che anche per l'Inghilterra potrebbe essere utile da seguire. Certamente sì. Vanni da Cuneo manda un messaggio bellissimo: best is the best, proprio di poeti come lui di cui il calcio avrebbe bisogno oggi, in grado di trasformare il gioco più bello del mondo nel gioco più stramaledettamente bello del mondo. Mi sembra un messaggio che è vero, che mi piace leggere, perché c'è dentro qualcosa che su cui varrebbe la pena riflettere, che comunque qualcosa ti smuove. Ultimo intervallo, strade. Allora, questo è il momento dedicato alla rubrica di Nicola Filippone. Sentiamo cosa è successo nella storia dello sport il giorno 7 ottobre. Sembra ieri. 7 ottobre 1979. Gilles Villeneuve su Ferrari vince sul circuito di Watkins Glen il Gran Premio degli Stati Uniti dell'Est, ultima prova del mondiale. Il successo consente al canadese di chiudere il campionato piloti in seconda posizione, alle spalle del compagno di scuderia, il sudafricano Jody Scheckter. Il secondo posto ottenuto nel 1979 è stato per Villeneuve il miglior piazzamento in carriera. Anche la suggestione di Villeneuve certamente non era male. Allora, mentre ci passano due o tre ascoltatori che hanno intenzione di, che avrebbero piacere di intervenire, e ovviamente il piacere è reciproco, direi con Marco Bellinazzo di affrontare due altri argomenti che poi si svilupperanno, credo, nelle prossime settimane. Intanto uno riguarda la Consob, che mi pare abbia rivolto una tirata d'orecchi discreta lunedì alle società quotate. Verrebbe da dire finalmente, insomma, anche la Consob si è accorta delle tante discussioni che i nuovi contratti con prestiti o vendite con obbligo di riscatto, leasing di calciatori e chi più ne ha più ne metta abbiamo argomenti che abbiamo affrontato, insomma. Come la Consob ha richiamato le tre squadre quotate, questa è la notizia, cioè Roma, Juventus e Lazio, ad applicare in maniera corretta i DIAS, i principi contabili internazionali, quindi a contabilizzare in maniera regolare questi bilanci, insomma questi contratti nei prossimi bilanci. Un richiamo, se vuoi, preventivo che dovrebbe in qualche modo evitare, come dire, contabilizzazioni leggere di questi bilanci il prossimo anno per poi rinviare i debiti all'anno prossimo. Cioè, però il problema è che tutte le altre squadre in realtà applicano non i principi internazionali ma i principi contabili nazionali, ora senza entrare troppo nel tecnicismo, ma in qualche modo potrebbe creare una disparità, quindi certo, un ulteriore fronte problematico, ma su quello vigileremo. In ogni caso è bene che anche la Consob abbia acceso un faro su questi nuovi contratti. Non c'è dubbio. A proposito di finanzieri o comunque di, tu dicevi, di parametri nazionali o internazionali, Vincenzo, questo messaggio di Vincenzo non è male, dice: sì, è vero, gli americani e i russi, però Cragnotti e Tanzi erano italiani, non americani o russi, no? Se parliamo di finanza allegra anche dal punto di vista calcistico, anche non solo, ma insomma anche calcistica, quindi teniamo poi presente anche questo. Marco è in linea da Biella, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, grazie per darmi questo spazio. Io mi piace che siete già passati ad altro argomento. Nel sentire parlare però di George Best e del suo modo di essere, io volevo ricordare, anzi chiederei a lei un ricordo di Gigi Meroni, perché credo che George Best sia stato all'Irlanda del Nord come forse Meroni, per chi ha amato il calcio in Italia, possa essere stato qualcosa che negli anni 70 ha rappresentato un qualcosa di diverso nel calcio. Marco, magari gli anni 70, perché è morto nel 67 Gigi Meroni, il 15 novembre del 67 a 24 anni, travolto da un'auto mentre attraversava la strada, attraversava Corso Re Umberto a Torino insieme ai compagni di squadra, dopo la sera di una domenica, dopo un 4-2 a Sampdoria con due suoi gol, uno più bello dell'altro. Magari Meroni avesse potuto, dicevo prima, proseguire sulla strada degli eccessi che fu di George Best, così non è stato, non ne ha avuto il tempo. Poi io credo, conoscendolo, avendolo sì conosciuto molto di lontano, ma avendo poi letto tutto quello che c'era su di lui, e soprattutto un magnifico libro scritto da Nando Dalla Chiesa, il cui titolo è La farfalla granata, che è uscito una decina di anni fa, forse anche di più, ma che è un gioiello dedicato a Meroni, un cameo lungo 200 pagine, ma delizioso. Chissà quale sarebbe stata la sua evoluzione, però la sensazione era che fuori dal campo il suo genere di eccesso non fosse quello di Best, fosse la trasgressione più meditata, più raffinata, se vogliamo, anche più intelligente, non meno eccentrica. Meroni girava per Torino per Piazza San Carlo con una gallina al guinzaglio, faccio per dire, no? Perché era un modo che lui aveva di passare parte del suo tempo libero. Però questa, detto così, sembra una sciocchezza, e invece era una delle sue eccentricità. Si vestiva in un modo stranissimo, non parliamo dei capelli lunghi, arrivare in nazionale con i capelli lunghi allora era quasi reato. Era un altro mondo. Certamente le affinità c'erano dal punto di vista tecnico. Poi chissà se Meroni sarebbe diventato bravo come Best. Non c'è stato il tempo di verificarlo. Roberto Milano, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Quando posso lo ascolto sempre con piacere. Bene, grazie. Speriamo che possa più spesso. Sì. Io ho questo grosso dubbio che non so se lei ha spiegato, però ovviamente avrei piacere di avere delle spiegazioni, cioè rispetto al fair play finanziario delle squadre di calcio. Ma perché c'è questa normativa? Nel senso, ma se sono, essendo delle aziende private, perché non consentire, che so, io sono interista, a un signore come Moratti di andare in perdita e ovviamente poi, come dispone la legge, ripianare? Ma perché? Cioè, non è una regola, diciamo, dirigista e antiliberale? È questo che mi sono sempre chiesto. Guardi, io da ignorante in materia mi auguro che il calcio diventi sempre più dirigista e illiberale da questo punto di vista, per garantire, no, non dico la parità a tutti, ma un minimo di disparità in meno. Però la mia risposta non ha alcuna autorevolezza. Ce l'ha quella di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che è qua con me. Questa è un'eccezione sicuramente comprensibile che molti club hanno sollevato, soprattutto perché temono che in qualche modo queste regole possano cristallizzare la situazione. Prevale però anche dal mio punto di vista l'esigenza di assicurare un maggior equilibrio sia all'interno dei campionati che fra le varie squadre europee, per evitare che si crei un gruppetto di club che può, andando a debito perché magari ha una proprietà effettivamente molto molto ricca, continuare ad acquistare i calciatori più importanti, continuare a vincere, accaparrarsi le maggiori risorse che sono destinate a chi i tornei li vince, e in questo modo lasciare invece impoverite le altre squadre che non potranno mai raggiungere certi risultati. Prevale dal mio punto di vista un'esigenza, diciamo, di equilibrio che è alla base di qualsiasi competizione sportiva, a mio avviso. Aggiungerei, sempre per questo amico ascoltatore, aggiungerei quanto segue. Pare, e se non è vera è molto ben inventata, pare che a Platini molti di questi questi presidenti generosi, e uno di questi sarebbe stato proprio Massimo Moratti, gli abbiano chiesto aiuto dicendo: se arrivasse una stretta finanziaria, noi forse, come dire, avremmo un po' più di alibi per non rovinarci. Questo te lo posso confermare, perché Platini, insomma, lo dice spesso, e ve l'ho detto anche a me, che sono stati i presidenti, in particolare quelli delle squadre più ricche, a chiedergli un intervento. Quindi è un autodirigismo, no? Ovviamente in occhiali neri, o comunque sussurrato e non dichiarato. Chiuderei con Mario, che ha chiamato da Verona. Buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Intanto grazie per la chiacchierata dell'altro giorno con Marino Bartoletti, è veramente adorabile. Ecco, ci fate quasi evadere dai luoghi di lavoro con quelle chiacchierate, quindi mi auguro che ci siano più spesso. Poi in ultima roba, volevo commentare con lei le dichiarazioni un poco eleganti di Gattuso su Leonardo dell'altro giorno. Io le ho trovate veramente inopportune, anche perché insomma ho sempre apprezzato Gattuso, quindi avrei preferito una sua dichiarazione nella quale si dichiarava magari rammaricato per non essere stato in forma lo scorso anno. Io, da simpatizzante milanista, credo che Leonardo abbia fatto il massimo che si poteva fare. Un suo parere su quelle dichiarazioni. Il mio parere, Mario, è che delle cose molto ineleganti, molto ingrate e di pessimo gusto su Leonardo le ha dette qualcun altro, che non fa il mediano ma insomma ha un altro ruolo nella società italiana e anche nel Milan. Gattuso, mi pare, se ho letto tutto e se ho ascoltato tutto, Gattuso ha detto che non c'era feeling con Leonardo e che quindi se non c'è feeling è chiaro che il giocatore dà un po' meno e il tecnico ti dà un po' meno sul piano dell'impegno e il tecnico dà un po' meno sul piano delle scelte, cioè sulla convinzione di volerlo impiegare o sul valorizzarlo. Se questo è un'espressione ingrata, le ripeto, gliene sottoporrei altre, così almeno possiamo fare un piccolo paragone. Grazie allora a Marco Bellinazzo, come sempre, al Sole 24 Ore. Grazie a Nicola Roggero per la sua partecipazione, a Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanida in redazione. Vi lascio al Giornale Radio. Tempo di Sport.